Un sorriso squarciò la tetraggine del volto di Lydgate. La serietà infantile e lo sguardo grave con cui Dorothea diceva tutto questo erano irresistibili, misti in un tutto adorabile con la sua pronta comprensione delle esperienze nobili, delle esperienze più ordinarie che giocano un grande ruolo nel mondo. La povera Mrs. Chasuble aveva una conoscenza assai confusa e miope, a cui la sua fantasia non contribuiva molto. Ma interpretò il sorriso come un incoraggiamento per il suo progetto. Credo che ora vi rendiate conto di aver parlato con troppo rigore, disse con voce persuasiva. L'ospedale sarebbe una buona azione e rendere la vostra vita del tutto integra e sana di nuovo sarebbe un'altra. Il sorriso di Lydgate si era dileguato. Voi avete la bontà, oltre al denaro, per fare tutto questo. Se si potesse, e gli disse, ma esitò qualche attimo. Guardando distrattamente verso la finestra, lei restò seduta in muta attesa. Infine, egli si voltò verso di lei e disse con impeto: Perché non dirvelo? Sapete che genere di vincolo è il matrimonio. Capirete tutto. Dorothea sentì il cuore cominciarle a battere più forte. Che Lydgate avesse anche quel dolore, ma temeva di dire anche una sola parola, ed egli proseguì immediatamente. Ora mi è impossibile fare alcunché, fare alcun passo senza prendere in considerazione la felicità di mia moglie. La cosa che mi piacerebbe fare, se fossi solo, mi è divenuta impossibile. Non posso sopportare di vederla infelice. Mi ha sposato senza sapere a che vita andava incontro e per lei sarebbe stato meglio che non mi avesse sposato. Lo so. Non sareste capace di darle un dolore, a meno che Non ci foste obbligato, disse Dorothea con un vivo ricordo della propria vita. E si è impuntata a non voler restare qui, vuole andarsene. I guai che ha dovuto sopportare qui l'hanno stancata, disse Lydgate, interrompendosi nuovamente per temore di dire troppo. Ma quando vedesse il bene che potrebbe derivare dal restare, disse Dorothea in tono di protesta, guardando Lydgate come se questi avesse dimenticato i motivi che erano stati proprio allora presi in esame. Egli non rispose immediatamente. Non lo vedrebbe, disse infine brusco, pensando dapprima che questa affermazione doveva essere presa senza alcuna spiegazione. E in verità ho perso ogni coraggio di condurre la mia vita qui. Tacque per un attimo, poi seguendo l'impulso di mostrare più apertamente a Dorothea la difficoltà della propria vita, proseguì. Il fatto è che questo guaio le è caduto addosso in maniera confusa. Non siamo riusciti a parlarci su di esso. Non so di sicuro cosa ne pensi. Può darsi che tema che io abbia veramente fatto qualcosa di abietto. È colpa mia. Dovrei essere più franco. Ma ho sofferto crudelmente. Posso andare a trovarla? Chiese Dorothea impaziente. Accetterebbe la mia simpatia? Le direi che nessuno vi ha giudicato riprovevole, tranne voi stesso. Le direi che verrete discolpato davanti a ogni persona giusta. Le rallegrerei il cuore. Volete chiederle se posso andare a trovarla? L'ho vista una volta sola. Sono certo che potete, disse Lydgate, approfittando della proposta con una certa speranza. Si sentirebbe onorata, rallegrata, suppongo, dalla dimostrazione che almeno voi avete un po' di rispetto per me. Non le parlerò della vostra visita, perché non posso in alcun modo metterla in rapporto con i miei desideri. So benissimo che non avrei dovuto lasciarle dire nulla da altri, ma si interruppe e seguì un attimo di silenzio. Dorothea si astenne dal dirgli quale fosse la propria opinione, come sapesse bene che potevano esserci delle barriere invisibili a una comunicazione fra marito e moglie. Era un argomento a proposito del quale persino la comprensione poteva ferire. Tornò all'aspetto più esteriore della situazione di Lydgate dicendo allegramente: E se Mrs. Lydgate sapesse che ci sarebbero amici che vi crederebbero e vi appoggerebbero, allora potrebbe essere lieta che rimaneste al vostro posto e riguadagnaste le vostre speranze e faceste ciò che era vostro intendimento fare. Forse allora vi accorgereste di aver fatto bene a concordare sulla mia proposta che continuate a lavorare all'ospedale. Sono certa che lo fareste. Se aveste ancora fede in esso, in quanto mezzo per rendere utili le vostre conoscenze, no? Lydgate non rispose e lei capì che stava riflettendo. Non è necessario che decidiate su due piedi, disse con voce gentile. Basterà che spedisca la mia risposta a Balstrow da qui a qualche giorno. Lydgate attese ancora, ma infine si volse per parlare con accenni estremamente decisi. No, preferisco che non mi resti tempo per tentennare. Non sono più molto sicuro di me stesso. Voglio dire di ciò che mi sarebbe possibile fare date le mutate circostanze della mia vita. Sarebbe disonorevole lasciare che altri si accollino dei seri impegni contando su di me. Alla fine potrei essere obbligato a partire e possibilità di una qualsiasi soluzione diversa mi sembrano scarse. Tutta la faccenda è troppo problematica. Non posso consentire di essere la causa dello spreco della vostra bontà. No, che il nuovo ospedale si unisca al vecchio e tutto prosegua come avrebbe fatto se io non fossi mai venuto. Tengo un registro prezioso da quando sono là. Lo spedirò a uno che saprà fare buon uso, concluse con amarezza. Per molto tempo non potrò pensare a null'altro che a guadagnare soldi. Mi ferisce assai profondamente sentirvi parlare in modo così disperato, disse Dorotea. Procurereste una gran felicità ai vostri amici che credono nel vostro futuro, nella vostra capacità di fare grandi cose, se permetteste loro di impedirvi questo gesto. Pensate a quanto denaro io. Sarebbe come togliermi un peso di dosso se ne prendeste un po' ogni anno fino a quando vi sarete liberato da questo frustrante bisogno di un reddito. Perché la gente non dovrebbe fare queste cose? È così difficile rendere tutte le parti uguali. Questo è un modo. Dio vi benedica, Mrs. Casebo, disse Lydgate, alzandosi come se fosse spinto dallo stesso impulso che rendeva energiche le sue parole, e appoggiando il braccio sullo schienale della grande poltrona di pelle in cui era stato seduto. È bello che abbiate tali sentimenti, ma io non sono l'uomo che dovrebbe permettersi di approfittarne. Non ho dato sufficienti garanzie. Perlomeno non devo sprofondare nella degradazione di venire sovvenzionato per un lavoro che non ho mai compiuto. Per me è chiarissimo che non devo contare su nient'altro che andarmene da Middlemarch al più presto possibile. Nel migliore dei casi non riuscirei per molto tempo a procurarmi un reddito qui e è più facile sottopormi ai necessari mutamenti in una nuova città. Devo fare come altri uomini e pensare quello che piace alla gente e portare a casa soldi, cercare un piccolo varco nella folla di Londra e spingermi avanti, stabilirmi in una località termale o andare in qualche città del sud dove ci sono un sacco di inglesi oziosi e lasciarmi lodare. Questo è il genere di guscio in cui devo insinuarmi e cercare di tenerci viva dentro la mia anima. Ora questo non è coraggioso, disse Dorotea, rinunciare alla lotta. No, non è coraggioso, disse Lydgate, ma se uno ha paura della paralisi progressiva, poi in tono diverso. Eppure avete reso tutto diverso per il mio coraggio credendo in me. Tutto mi sembra più sopportabile da quando vi parlo. E se riuscirete a scagionarmi davanti ad alcuni, soprattutto Fairbrother, vi sarò profondamente grato. La cosa di cui desidero che non facciate cenno è la disobbedienza ai miei ordini. Il fatto verrebbe subito malinterpretato. Dopotutto non vi è alcuna prova in mio favore, tranne l'opinione che la gente aveva di me in precedenza. Potrete solo ripetere le mie ammissioni su me stesso. Mister Fairbrother ci crederà, altri ci crederanno, disse Dorotea. Potrò affermare su di voi cose che faranno sembrare una stupidità, supporre che vi sia potuto corrompere per fare una malvagità. Non lo so, disse Lydgate con qualcosa di simile a un gemito nella voce. Finora non ho accettato nulla per farmi corrompere, ma esiste una pallida ombra di corruzione che talvolta viene chiamata prosperità. Allora, mi farete un'altra grande gentilezza e verrete a trovare mia moglie? Sì, ve lo prometto. Ricordo quant'è carina, disse Dorotea, nel cui pensiero ogni impressione di Rosamond si era impressa profondamente. Spero di andarle a genio. Mentre si allontanava a cavallo, Lydgate pensò: questa giovane creatura ha un cuore grande come la Vergine. Evidentemente non si cura del proprio futuro e impegnerebbe metà del proprio reddito seduta stante, come se non volesse niente per sé tranne una poltrona per sedersi, dalla quale possa guardare giù, con quegli occhi chiari, alla volta dei poveri mortali che levano le loro preghiere a lei. Sembra che abbia quello che non ho mai visto in nessuna donna prima d'ora, una fonte di amicizia verso gli uomini. Un uomo può fare di lei un'amica. Chesabot deve averle suscitato dentro una qualche allucinazione eroica. Chissà se potrebbe nutrire qualsiasi altro genere di passione per un uomo. Ladislav, certo, fra di loro c'era un sentimento inconsueto. E Chesabot deve averne avuto sentore. Beh, il suo amore potrebbe giovare a un uomo più del suo denaro. Dorotea, dal canto suo, aveva su due piedi escogitato un piano per affrancare Lydgate dal suo debito verso Balstrow, che a suo parere era certo una parte, anche se esigua, dell'assillo irritante che doveva sopportare. Si sedette subito sotto l'ispirazione del loro colloquio e scrisse un breve biglietto in cui sosteneva di avere maggiore diritto di Balstrow alla soddisfazione di procurare il denaro utile a Lydgate, che sarebbe stato scortese da parte di Lydgate non concedere la possibilità di aiutarlo in quella faccenda di poco conto, poiché il favore veniva fatto interamente a lei, che aveva così poche occasioni di utilizzare il proprio denaro superfluo. Egli poteva chiamarla creditrice o con qualsiasi altro nome, purché ciò sottintendesse che egli esaudiva la sua richiesta. Allegò un assegno di 1.000 sterline e decise di portare con sé la lettera il giorno successivo, quando si sarebbe recata a trovare Rosamond. Capitolo 77. Il giorno successivo, Lydgate doveva recarsi a Bressing e disse a Rosamond che sarebbe stato fuori fino a sera. Negli ultimi tempi lei non aveva messo piede fuori della casa e del giardino, fuorché per recarsi in chiesa e una volta trovare suo padre, al quale aveva detto: «Se Tertius se ne va, ci aiuterete a fare il trasloco, vero padre? Penso che avremo pochi soldi. Spero proprio che qualcuno ci aiuti». E Mr. Vincey aveva detto: «Sì, figliola, 100-200 sterline non mi preoccupano, so dove andranno a finire». Con queste obiezioni in mente, era rimasta a sedere in casa, in preda a una languida malinconia e ad aspettative incerte, col pensiero fisso sull'arrivo di Will Ladislav come unico centro di speranze e di interesse, e associando adesso qualche nuova pressione su Lydgate perché facesse immediatamente i preparativi per lasciare Middlemarch e andare a Londra, finché non si sentì certa che quell'arrivo avrebbe rappresentato un potente incitamento alla partenza, senza capire assolutamente in che maniera. Questo modo di fissare delle sequenze è troppo comune per essere giustamente considerato una follia tipica di Rosamond, ed è proprio questo genere di sequenza che provoca lo sbalordimento maggiore quando viene spezzata. Infatti, capire come si possa produrre un effetto significa spesso rendersi conto di collegamenti mancanti e di ostacoli, ma non vedere nulla, tranne la causa desiderabile e immediatamente dopo il desiderabile effetto, ci libera dal dubbio e rafforza l'intuizione della nostra mente. Questo era il processo mentale che aveva luogo in Rosamond, mentre disponeva tutti gli oggetti intorno a sé con la delicatezza di sempre, solo con maggior lentezza, o si sedeva al piano con l'intenzione di suonare e quindi desistendo, oppure indugiando sullo sgabello con le dita bianche sospese sul coperchio di legno o guardando davanti a sé in una sognante e nui. La sua malinconia era divenuta così pronunciata che Lydgate provava una strana timidezza davanti a lei, come un continuo muto rimprovero. E quest'uomo forte, vinto dalla propria acuta sensibilità verso questa creatura bella e fragile, la cui vita egli sembrava in qualche modo aver offeso, si sottraeva ai suoi sguardi e talvolta sobbalzava al suo approssimarsi mentre il timore di lei e per lei lo assaliva solo con maggior forza, dopo essere stato momentaneamente cacciato dall'esasperazione. Ma quel mattino Rosamond scese dalla stanza di sopra, dove talvolta restava seduta per l'intera giornata quando Lydgate era fuori, vestita per una passeggiata in città. Doveva imboccare una lettera indirizzata a Mr. Ladislav e scritta con incantevole discrezione, ma con lo scopo di affrettare il suo arrivo perché vi si accennava dei guai. La donna di servizio, oramai la loro unica domestica, la osservò scendere da basso col vestito da passeggio e pensò che nessuna donna aveva mai avuto un aspetto così carino, poverina. Frattanto, il capo di Dorotea era pieno del progetto di recarsi da Rosamond e dei molti pensieri riguardanti sia il passato che il probabile futuro che si affollavano attorno all'idea di quella visita. Fino al giorno precedente, quando Lydgate le aveva fatto intravedere qualche difficoltà nella propria vita matrimoniale, L'immagine di Mrs. Lydgate per lei era sempre stata associata a quella di Will Ladislaw. Persino nei momenti di maggior disagio, persino quando era stata scossa dai pettegolezzi riferiti da Mrs. Cadwell ed era in modo penosamente vivace, il suo sforzo, anzi, il suo più forte suggerimento dell'istinto, avevano mirato a scagionare Will da qualsiasi congettura disonorevole. E quando nell'incontro avvenuto in seguito, lei aveva dapprima interpretato le sue parole come la probabile allusione a un sentimento provato per Mrs. Lydgate, a cui egli era deciso non abbandonarsi, aveva avuto un'improvvisa, triste, giustificatrice visione del fascino che ci poteva essere nelle sue costanti occasioni di far compagnia a quella bella creatura, la quale probabilmente condivideva gli altri gusti di lui, come evidentemente avveniva per il piacere che gli dava la musica. Ma erano seguite le sue parole di commiato. Le poche, appassionate parole nelle quali egli aveva fatto capire che lei stessa era l'oggetto di quell'amore che lo teneva nel terrore, che era soltanto il proprio amore per lei che egli era deciso a non dichiarare, ma a portarsi via nell'esilio. Dal momento di quella separazione, Dorothea, fiduciosa nell'amore di Will per lei, fiduciosa con orgoglioso piacere nel suo delicato senso dell'onore, nella sua risolutezza a non lasciarsi accusare giustamente da nessuno, sentiva il proprio cuore del tutto tranquillo in merito alla considerazione che egli potesse avere per Mrs. Lydgate. Era certa che quella considerazione fosse irreprensibile. Ci sono personalità in cui, se ci amano, siamo consapevoli di avere una sorta di battesimo e di consacrazione, e se ci vincolano alla rettitudine e alla purezza, grazie alla loro pura fiducia in noi, e i nostri peccati divengono quel genere peggiore di sacrilegio che abbatte l'invisibile altare della fiducia. Se tu non sei buono, non lo è nessuno. Queste brevi parole possono conferire un terribile significato alla responsabilità, possono contenere una forza corrosiva per il rimorso. La natura di Dorothea era di quel genere. Le stesse pecche operate dalla sua passione stavano accanto ai canali aperti e facilmente enumerabili del suo carattere ardente. E mentre era piena di compassione per i visibili errori altrui, nella sua esperienza non era ancora in possesso ancora di alcun materiale per sottili elaborazioni e sospetti di malefatte celate. Ma quella sua semplicità, che presentava ad altri un ideale nel fiducioso concetto che lei aveva di loro, era una delle grandi forze della femminilità e fin dall'inizio aveva avuto un effetto assai forte su Will Ladislaw. Questi, pensò al momento della separazione, che le brevi parole con cui aveva cercato di trasmetterle ciò che sentiva per lei e l'ostacolo che il suo patrimonio poneva fra di loro, avrebbero solo guadagnato dalla loro brevità quando Dorothea avesse dovuto interpretarle. Egli capiva di aver trovato la massima stima nel pensiero di lei. E su questo punto aveva ragione. Nei mesi trascorsi dalla loro separazione, Dorothea aveva provato una tranquillità triste e deliziosa nel loro rapporto reciproco, in quanto qualcosa di internamente sano e senza macchia. Lei possedeva un'attiva capacità di antagonismo, quando quell'antagonismo si volgeva alla difesa di progetti o di persone in cui credeva, e i torti che a suo parere Will aveva ricevuto dal marito e le condizioni esteriori che agli occhi di altri erano motivo per disprezzarlo, conferivano solo una maggiore tenacia al suo affetto e al suo giudizio ammirato. E ora, con le rivelazioni su Balstrow, si era presentato un altro fatto a incidere sulla posizione sociale di Will, che stimolò nuovamente la resistenza interiore di Dorothea di fronte a ciò che si diceva di lui in quella parte del suo mondo racchiusa dalle palizzate di un parco. Il giovane Ladislav, nipote di un agente di pegno ebreo e ladro, era una frase che era entrata vigorosamente nei dialoghi sull'affare Balstrow a Lowick, a Tipton e a Freshitt, ed era un genere di etichetta peggiore addosso al povero Will di quella dell'italiano coi topi bianchi. L'onesto Sir James Chatham era convinto che la propria soddisfazione fosse giusta quando pensò con un certo qual compiacimento che si era aggiunta un'altra lega a quella enorme distanza fra Ladislav e Dorothea, il che gli consentì di accantonare ogni preoccupazione in quel senso, in quanto troppo assurda. E forse aveva provato un certo piacere nel richiamare l'attenzione di Mr. Brooke su questo brutto particolare della genealogia di Ladislav, come se fosse un'altra candela con cui potesse vedere la propria follia. Dorothea aveva osservato l'animosità con cui la parte di Willy in quella storia dolorosa era stata ricordata più di una volta, ma non aveva aperto bocca, essendo ora frenata, come non lo era stata in precedenza parlando di Will, dalla consapevolezza di un rapporto più intimo fra loro, su cui bisognava conservare per sempre un sacro riserbo. Ma il suo silenzio avvolse il suo affetto tenace in un bagliore più completo, e questa disgrazia del destino di Will, che così pareva, altri desideravano buttargli alle spalle come una vergogna, conferiva solo un certo qual accresciuto entusiasmo al suo attaccamento per lui. Lei non accarezzava alcuna visione di un probabile realizzarsi di una loro unione più stretta, eppure non aveva assunto alcun atteggiamento di rinuncia. Aveva accettato tutto il suo rapporto con Will, assai semplicemente come parte delle proprie tribolazioni matrimoniali, e avrebbe considerato assai peccaminoso da parte propria continuare a lagnarsi dentro di sé perché non era completamente felice, essendo invece disposta a riflettere su ciò che il destino le aveva dato di sovrabbondante. Riusciva ad accettare che i piaceri principali della sua tenerezza riposassero nel ricordo e l'idea del matrimonio le si presentava unicamente come una repellente proposta da parte di una qualche corteggiatore di cui al momento non sapeva nulla, ma i cui meriti, visti come tali dai familiari di lei, le sarebbero stati fonte di tormento. Qualcuno che si prenda cura per te, dei tuoi possedimenti, mia cara, era l'allettante suggerimento di Mr. Brooke sulle sue caratteristiche adatte. Desidererei prendermene cura io stessa se sapessi cosa farne, disse Dorotea. No, restava fedele alla propria affermazione che non si sarebbe più risposata e nella lunga valle della sua vita sembrava così piatta e vuota di indicazioni. La guida le sarebbe venuta lungo il cammino mentre vedeva i suoi compagni di viaggio. Questo sentimento abituale verso Will Ladislav era stato forte nelle sue ore di veglia, fin da quando aveva avanzato la proposta di fare una visita a Mrs. Lydgate, e costituiva una specie di sfondo contro il quale vedeva avanzare la figura di Rosamond senza barriere per il proprio interessamento e la propria compassione. Evidentemente c'era una qualche separazione mentale, un qualche ostacolo a una confidenza completa che si erano levati fra questa moglie e il marito, che aveva fatto della felicità di lei una legge per sé. Questo era un problema in cui nessuna terza persona doveva interferire direttamente, ma Dorotea pensò con profonda compassione alla solitudine in cui i sospetti gettati sul marito dovevano aver precipitato Rosamond, e una manifestazione di rispetto per Lydgate e di simpatia per lei avrebbe certamente contribuito ad aiutarla. Le parlerò del marito, pensò Dorotea mentre si recava verso la città in carrozza. La chiara mattinata primaverile, l'odore della terra umida, le nuove foglie che lasciavano appena intravedere la loro profusione di verde chiaro dalle guaine semi dischiuse, sembravano prender parte all'allegria che lei provava dopo una lunga conversazione con Mr. Fairbrother, il quale aveva accettato con gioia la spiegazione giustificatrice della condotta di Lydgate. Porterò una buona notizia a Mrs. Lydgate e lei forse avrà piacere di parlarmi e di accettarmi come amica. Dorotea aveva un'altra faccenda da sbrigare a Lowick Gate. Si trattava di una nuova campana dal tono gradevole per la scuola e poiché doveva scendere dalla carrozza molto vicino alla casa di Lydgate, vi si diresse attraversando la strada dopo aver detto al cocchiere di aspettare alcuni pacchi. Il portone era aperto e la donna di servizio approfittava dell'occasione di sbirciare verso la carrozza ferma e ben visibile quando le fu chiaro che la signora che faceva parte di essa stava venendo alla sua volta. Mrs. Lydgate è in casa? Chiese Dorotea. Non ne sono sicura, signora. Vado a vedere se volete favorire dentro, disse Marta, un po' imbarazzata per il proprio grembiule da cucina, ma abbastanza padrona di sé da essere certa che signora non fosse il modo giusto di rivolgersi a questa regale giovane vedova con una carrozza tirata da una pariglia. Favorite dentro, vi prego, e andrò a vedere. Dite che sono Mrs. Casabo, disse Dorotea, mentre Marta si spingeva avanti con l'intenzione di farle strada fino in salotto e poi andare di sopra per vedere se Rosamond avesse fatto ritorno dalla passeggiata. Attraversarono la parte più ampia dell'ingresso e imboccarono il corridoio che conduceva in giardino. La porta del salotto non era serrata e Marta, spintala senza guardare dentro la stanza, attese che Mrs. Casabo entrasse e poi si allontanò dopo che la porta si fu aperta e richiusa senza rumore. Quella mattina Dorotea aveva delle cose esterne. Aveva una visione più debole del consueto, piena com'era di immagini, di cose che erano accadute o dovevano accadere. Si trovò oltre la porta senza vedere alcunché di notevole, ma subito udì parlare una voce sommessa che la fece sobbalzare come per la sensazione di sognare ad occhi aperti. E fatti inconsapevolmente un paio di passi oltre il lato sporgente di una libreria, vide nella terribile illuminazione di una certezza che riempì tutti i profili qualcosa che la portò a fermarsi immobile, priva di sufficiente padronanza di sé per parlare. Seduto, con la schiena rivolta a lei, su un divano appoggiato al muro in linea con la porta da cui era entrata, vide Will Ladislav. Accanto, e rivolta verso di lui con un rossore lacrimoso che le conferiva un novello splendore, sedeva Rosamond, il cappellino pendente sulle spalle, mentre Will, piegato verso di lei, le teneva entrambe le mani levate nelle proprie e parlava con sommesso fervore. Rosamond, nella sua agitata concentrazione, non aveva notato la figura che avanzava lentamente, ma quando Dorotea, dopo il primo lunghissimo istante di questa visione, retrocedette confusamente e si trovò impedita da qualche mobile, Rosamond si rese immediatamente conto della sua presenza e, con un moto spasmodico, districò le mani e si alzò, guardando Dorotea che si era per forza fermata. Will Ladislav, balzato in piedi, si guardò anche lì attorno e, incontrati gli occhi di Dorotea, che avevano un nuovo bagliore, parve mutarsi in marmo. Ma questa li distolse immediatamente da lui per fissare Rosamond e disse con voce ferma: «Scusatemi, Mrs. Lydgate. La domestica non sapeva che voi foste qui. Sono passata per consegnare una lettera importante per Mr. Lydgate che desideravo lasciare in mano vostra». Posò la lettera sul tavolinetto che le aveva impedito la ritirata e poi, inclusi Rosamond e Will in un'unica distante occhiata e in un inchino, uscì frettolosamente dalla stanza per incontrare nel corridoio la sorpresa Martha, che disse di essere spiacente che la signora non fosse in casa. E poi accompagnò fino all'uscita la strana signora, riflettendo dentro di sé che le persone di rango probabilmente erano più impazienti delle altre. Dorotea attraversò la strada col suo passo più elastico e risalì rapida in carrozza. «A Freshitt Hall!» disse al cocchiere, e chiunque l'avesse guardata avrebbe potuto pensare che, sebbene fosse più pallida del solito, non era mai stata animata da un'energia più sicura. E quella era davvero la sua esperienza. Era come se avesse trangugiato una gran sorsata di disprezzo che la stimolava al di là della suscettibilità ad altri sentimenti. Aveva visto una cosa così indegna della sua fiducia che i suoi sentimenti si ritrassero violentemente da essa e costituirono una folle eccitata senza un oggetto. Aveva bisogno di una qualche attività in cui riversare la propria eccitazione. Si sentiva la forza di camminare e di lavorare per una giornata intera senza mangiare o bere, e avrebbe messo in atto il piano con cui era partita al mattino, di andare a Freshitt e a Tipton per dire a Sir James e allo zio tutto ciò che voleva che sapessero su Lydgate, la cui solitudine coniugale nel momento della sua afflizione ora le si era presentata con un nuovo significato e la rendeva più ardente nel disporsi ad essere suo campione. Non aveva mai provato nulla di simile a questa trionfante forza di indignazione nell'affanno della sua vita matrimoniale, in cui c'era sempre stato un dolore che la sottometteva rapidamente, e ciò lei lo prese come un segno di una nuova forza. «Dodo, come sono luminosi i tuoi occhi!» disse Celia quando Sir James fu uscito dalla stanza. «E non vedi niente di quello che guardi, Arthur, o il resto. Ha intenzione di fare qualcosa di sgradevole, lo so. Riguarda tutto Mr. Lydgate o è successo qualcos'altro?» Celia era abituata a osservare la sorella con aria di attesa. «Sì, cara, sono successe tantissime cose», disse Dodo con la sua voce piena. «Mi chiedo cosa», disse Celia, intrecciate comodamente le braccia e sporgendosi in avanti su di esse. «Oh, tutti i guai di tutta la gente sulla faccia della terra», disse Dorotea sollevando le braccia verso la nuca. «Dio mio, Dodo, hai intenzione di progettare qualcosa per loro?» disse Celia un po' a disagio di fronte a questo vaneggiamento degno di Amleto. Ma Sir James rientrò, pronto per accompagnare Dorotea alla Grange, e lei portò bene a compimento la propria spedizione, senza scostarsi dalla propria decisione fino a quando non discese alla porta di casa propria. Capitolo 78. Rosamond e Will restarono immobili. Non si resero conto per quanto. Lui con lo sguardo verso il punto in cui si era trovata Dorotea e lei guardandolo dubbiosa. Parve che il tempo non finisse più per Rosamond. Nei cui più intimi recessi dell'animo non c'era tanta irritazione quanto piacere per ciò che era appena accaduto. Le nature superficiali sognano un facile dominio sui sentimenti altrui, implicitamente fiduciose che i loro modesti poteri magici facciano deviare i fiumi più profondi e sicure, con gesti e osservazioni carine, di far apparire come esistente la cosa che non c'è. Sapeva che Will aveva ricevuto un duro colpo, ma era stata poco abituata a immaginare sentimenti altrui, se non come materiale squadrato dai suoi desideri, e credeva nella propria capacità di lenire e di sottomettere. Persino Tertius, uno degli uomini più perversi, a lungo andare si sottometteva. I fatti erano stati ostinati, eppure Rosamond ora avrebbe detto, come prima di sposarsi, che non rinunciava mai a qualcosa che si era messa in testa di avere. Allungò il braccio e posò le punte delle dita sulla manica del cappotto di Will. «Non mi toccate», disse con voce simile a un colpo di frusta, allontanandosi repentinamente da lei e mutando di colore dal rosa al bianco e viceversa, come se tutta la sua persona fremesse per il dolore della ferita. Si girò verso l'altra parte della stanza e restò in piedi davanti a lei, con i polpastrelli in tasca e la testa gettata all'indietro, fissando con furore non Rosamond, ma un punto a qualche centimetro da lei. Era profondamente offesa, ma il modo con cui lo dava a vedere era tale che solo Lydgate era solito interpretarlo. D'un tratto divenne muta e si sedette, slegandosi il cappellino penzolante e posandolo assieme allo scialle. Le piccole mani che piegò davanti a sé erano assai fredde. Per Will sarebbe stato più prudente raccogliere subito il cappello e andarsene. Ma non aveva trovato alcun impulso a far questo. Al contrario, aveva un desiderio terribile di restare e ridurre Rosamond a pezzi con la propria ira. Sopportare la calamità che egli le aveva attirato addosso senza sfogare la propria furia. Sembrava impossibile come per una pantera sopportare la ferita del giavellotto senza spiccare un balzo e mordere. Eppure, come dire a una donna che era pronta a maledirla? Ardeva dalla collera sotto una legge repressiva che era obbligato a riconoscere. Egli era pericolosamente avvelenato e la voce di Rosamond ora gli trasmise la vibrazione decisiva. Con un tono flautato di sarcasmo gli disse: «Potete facilmente seguire Mrs. Casebo e spiegarle la vostra preferenza?» «Seguirla?» Egli sbottò con un accento tagliente. «Pensate che si volterebbe a guardarmi o a giudicare qualsiasi parola che le dicessi di nuovo più di una penna sudicia?» «Spiegare? Un uomo? Come può dare una spiegazione che danneggia una donna?» «Potete dirle quello che vi pare», disse Rosamond con un tremito più intenso. «Pensate che mi avrebbe più caro per avervi sacrificata? Lei non è una donna che si senta lusingata dal fatto che io mi sia reso spregevole, da credere che io debba essere fedele a lei perché sono stato un vile con voi». Cominciò a camminare avanti e indietro con l'irrequietudine di un animale selvatico che vede la preda ma non può raggiungerla. Quasi subito sbottò di nuovo. Prima non avevo alcuna speranza, non molta, che mi venisse qualcosa di meglio, ma avevo una sola certezza, che lei credeva in me. Qualsiasi cosa la gente avesse detto o fatto di me, lei credeva in me. È tutto svanito. Non mi considererà mai più altro che uno spregevole simulatore, troppo esigente per prendere il paradiso se non a condizioni gratificanti, eppure pronto di soppiatto a vendermi per qualsiasi spicciolo del diavolo. Mi considererà un insulto personificato per lei, dal primo momento che noi. Will si fermò, come se si fosse trovato in mano qualcosa che non doveva essere scagliato via infranto. Trovò un altro sfogo per la propria rabbia, riprendendo le parole di Rosamond come se fossero rettili da strangolare e buttar via. Spiegare. Dire a un uomo di spiegare com'è precipitato nell'inferno. Spiegare la mia preferenza. Non ho mai avuto una preferenza per lei, non più di quanto abbia preferenze per respirare. Nessun'altra donna esiste accanto a lei. Preferirei toccare la mano di lei morta che quella di qualsiasi altra donna viva. Rosamond, mentre le venivano scagliati addosso questi proiettili avvelenati, stava quasi perdendo il senso della propria identità e sembrava quasi destarsi a qualche nuova terribile esistenza. Non provava alcun senso di gelida, risoluta repulsione, di reticente autogiustificazione, quale aveva conosciuto di fronte all'indignazione più tempestosa di Lydgate. Tutta la sua sensibilità era trasformata in un nuovo stupefacente dolore. Aveva la nuova sensazione, mai provata in precedenza, di ritirarsi atterrita davanti a una frusta. Ciò che un'altra natura sentiva in opposizione alla sua le bruciava e le trapassava la coscienza. Quando Will ebbe terminato di parlare, lei era divenuta un'immagine di sfigorita infelicità. Le sue labbra erano esangui e negli occhi c'era uno sgomento senza lacrime. Se davanti a lei ci fosse stato Tertius, quell'espressione di infelicità gli avrebbe recato un gran dolore e si sarebbe sprofondato accanto a lei per confortarla con quel vigoroso conforto che lei aveva spesso tenuto in pochissimo conto. Si perdoni a Will di non aver avuto un simile moto di compassione. In precedenza non aveva sentito alcun attaccamento per questa donna che gli aveva rovinato il tesoro ideale della vita ed egli si riteneva innocente. Sapeva di essere crudele, ma non si era ancora placato. Dopo aver terminato di parlare, continuò a muoversi in qua e là, per metà assente col pensiero, e Rosamond sedette perfettamente immobile. Infine Will parve decidersi, raccolse il cappello, eppure restò esitante per qualche attimo. Le aveva parlato in un modo che rendeva difficile pronunciare una frase di consueta buona educazione, eppure ora che raggiunto al punto di andarsene da lei senza dire altro, se ne ritrasse come da una brutalità. Si sentì frenato e frustrato nella sua ira. Si diresse verso la mensola del caminetto, gli appoggiò sopra il braccio e attese in silenzio. Neppure lui sapeva cosa. Il fuoco vendicativo gli bruciava ancora dentro e non gli riusciva di pronunciare alcuna parola di ritrattazione, ma nondimeno ragionava che, tornato a questo focolare, doveva aver goduto di un'amicizia affettuosa, ne aveva trovato la calamità. Gli era stato d'improvviso rivelata un'afflizione che era fuori della casa oltre che dentro di essa, e ciò che pareva una premonizione lo stringeva come una lenta tenaglia, che la sua vita potesse venir resa schiava da questa donna impotente che gli si era buttata fra le braccia nella squallida tristezza del suo cuore. Ma egli si ribellava tetramente al fatto che la sua viva inquietudine gli faceva presagire, e quando lo sguardo gli cadde sul volto devastato di Rosamond, gli parve che dei due fosse lui il più meritevole di compassione. Infatti il dolore deve passare nella vita esaltante del ricordo prima di potersi trasmutare in compassione. E restarono così per molti minuti, l'uno di fronte all'altra, separati, silenziosi. Nel viso di Will c'era ancora una rabbia muta e in quello di Rosamond una muta infelicità. La poverina non aveva forza di ribattergli, scagliandogli addosso alcuna passione. Il crollo terribile dell'illusione verso cui si era tesa con tutta la speranza era un colpo che l'aveva scossa troppo completamente. Il suo piccolo mondo era in rovina e lei si sentiva barcollare in mezzo ad esso come una coscienza solitaria e sbigottita. Will avrebbe voluto che parlasse, che portasse qualche ombra di attenuante sulle sue parole crudeli, che sembravano stare a guardarli, facendosi gioco di qualsiasi tentativo di rinnovare l'amicizia. Ma lei non disse nulla e infine, con uno sforzo disperato su se stesso, chiese: «Devo venire a trovare Lydgate questa sera?» «Se volete», rispose Rosamond con voce appena percettibile. Quindi Will uscì di casa e Marta non seppe mai che c'era stato.